musica dal vino, calda la testa, una gran festa fa preparare. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la fantasia, il minuendo di la follia, di la levanda fa riballare. Il minuendo fa riballare, di la follia fa riballare. La levanna fa riballare, il mio frattanto dall'altro canto, con questo quella omareggiar, omareggiar, omareggiar. Alla balista d'una mattina, una decina deve aumentare. Alla balista d'una decina deve aumentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, ti con quella cerca menar. Alla balista d'una mattina, una decina deve aumentare. Senza alcun ordine la fantasia, il minuendo di la follia, di la levanna fa riballare. Alla balista d'una mattina, una decina deve aumentare, una decina deve aumentare, una decina deve aumentare, deve aumentare, deve aumentare, deve aumentare.